Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata, buon inizio settimana, benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio. Ne abbiamo parlato giusto la settimana scorsa, ma torniamo a ricordarvi questa data, quella del 1° luglio scorso, da quando è scattato l'obbligo della certificazione energetica per chi decide di vendere e comprare casa. È il documento che classifica l'appartamento a seconda della sua efficienza energetica. La norma che lo prevede però presenta ancora, secondo qualcuno, dei problemi interpretativi e suscita soprattutto molte domande nelle famiglie proprietarie o in procinto di diventare proprietarie di una casa, che non sanno bene in cosa consista questa certificazione e non sanno da dove cominciare per farsela produrre. Oltretutto le regioni sulla materia hanno legiferato in ordine piuttosto sparso. Certo è che con la sua introduzione aumentano di fatto gli obblighi e i costi a carico dei proprietari. E proprio per alleggerire il costo della certificazione, la normativa prevede che per gli appartamenti in condomini dotati di un impianto termico comune, la documentazione energetica possa basarsi su una certificazione cumulativa. Tra l'altro, al bollino verde per il condominio oggi è dedicata la copertina di Affari Privati del Sole 24 Ore, in edicola naturalmente questa mattina, ma noi di tutto questo parleremo con i nostri ospiti, ovviamente sempre prendendo come spunto anche le vostre domande all'800240024. Saluto e ringrazio di essere tornato tra di noi Saverio Fossati, collega del Sole 24 Ore. Buongiorno a tutti. Saluto e ringrazio per essere qui da noi invece per la prima volta Alessandro Tardio, direttore tecnico Abaco Servizi. È una società che si occupa anche di produrre queste certificazioni, mi sbaglio? No, buongiorno a tutti. Buongiorno, quindi allora ci saprà dire intanto cosa dobbiamo aspettarci dalla consulenza tecnica in questo campo, a chi ci dobbiamo rivolgere e quanto ci costa anche questa operazione. Poi ci collegheremo tra qualche minuto con l'avvocato Eugenio Correale, capo ufficio studi della NACI, l'Associazione Nazionale degli Amministratori di Condominio, proprio per fare il punto anche sulle situazioni condominiali. Numero verde per intervenire, io ve l'ho ricordato, se non vi foste appuntati il nostro numero, ve lo ricordo ancora, 800240024. Il numero per i vostri messaggi invece è il 349-238-6666. La borsa, la settimana parte male. Settimana scorsa non è che siano andate meglio le cose, ma c'è ancora una larga incertezza sullo stato macroeconomico generale, e settimana scorsa è iniziata anche la cosiddetta stagione delle trimestrali. Questa settimana arriveranno molte aziende a comunicare i dati di bilancio, in particolar modo ci saranno alcune banche americane, e sarà sicuramente questo un test molto importante per verificare ancora lo stato di salute del sistema finanziario internazionale. Stamattina in avvio le borse europee perdevano oltre un punto, hanno poi rapidamente recuperato tutto, addirittura qualcuno è passato in territorio positivo. Adesso in positivo ci rimane solo Francoforte, che sta guadagnando lo 0,06%, mentre sono ancora deboli le altre piazze. Parigi meno 0,22, Londra meno 0,05, Milano perde un po' più delle altre, perde lo 0,47%. Abbiamo un rapporto euro-dollaro sotto la soglia di 1,40, abbiamo il petrolio che è finito sotto i $60 al barile stamattina nel corso delle contrattazioni sul mercato asiatico. A Piazza Affari il mercato stamattina, gli operatori stanno puntando su Ansaldo, più 3,45%, un gruppo che avrebbe in vista un forte aumento degli ordinativi, per cui il mercato premia. Prysmian più 2,39, Bulgari recupera un po' del terreno perso, ed è stato tanto la settimana scorsa, più 1,84, Saipem più 1,71, STM il rialzo dell'1,40%, abbiamo un rialzo di un punto per UbiBanca, e Tenaris più 0,8% per Geox. Mentre sono in difficoltà molti titoli del settore bancario, Intesa San Paolo meno 2,30, il Banco Popolare meno 1,93%, si sta risentendo probabilmente delle indiscrezioni secondo cui l'istituto sta ipotizzando un aumento di capitale per la controllata banca Italis. L'OPA sta andando praticamente deserta, si conclude il 15 luglio, Monte dei Paschi meno 1,40, Eni ed Enel in ribasso di quasi l'1,4%, abbiamo oltre un punto di ribasso anche per Eni, per Mondadori, per CIR e per Luxottica, per cui insomma settimana che parte male per il mercato. Vedremo se nel pomeriggio si raddrizzerà la situazione con l'apertura e le indicazioni che arriveranno da Wall Street. Lasciamo però la borsa, andiamo subito al tema di questa mattina, ritorniamo su questa nuova incombenza che graverà sui proprietari delle case e soprattutto sugli acquirenti delle abitazioni, c'è l'obbligo di dotare la casa oggetto della compravendita della cosiddetta certificazione energetica. Sentiamo. Il 1 luglio 2009 è scattato l'obbligo di certificazione energetica per chi decide di vendere o comprare casa. Si tratta in sostanza di un documento che classifica l'appartamento a seconda della sua efficienza energetica. Efficienza che si esprime principalmente attraverso la quantità di energia che serve per riscaldare un metro quadro per un anno. Si estende così anche alle transazioni tra privati una disposizione già in vigore per alcune categorie di immobili, come per esempio quelli costruiti con una concessione edilizia posteriore all'8 ottobre 2005. La norma tuttavia presenta ancora problemi interpretativi e suscita dubbi sull'effettiva applicabilità. Si parla per esempio di dotazione, ma non c'è obbligo di allegare a rogito la certificazione. Senza considerare che alcune regioni, Lombardia, Liguria ed Emilia-Romagna, hanno emanato norme che prevedono comunque l'obbligo di allegare il certificato a rogito. Mentre nelle altre, ad oggi sprovviste, la certificazione energetica è di fatto sostituita dall'attestato di qualificazione energetica. La certificazione appare comunque destinata a diventare indispensabile e con la sua introduzione aumentano di fatto gli obblighi a carico dei proprietari e di conseguenza i costi che questi ultimi devono sostenere per farvi fronte, che variano dai 400 ai 1000 euro. Costi che in molti casi però si possono tradurre in un corrispondente incremento del valore di mercato dell'immobile, anche oltre il 20%, a cui va aggiunto il beneficio del risparmio fiscale IRPEF. E proprio per alleggerire il costo della certificazione, la normativa prevede che per gli appartamenti in condomini dotati di un impianto termico comune, la documentazione energetica può basarsi, oltre che sulla valutazione della singola unità immobiliare, su una certificazione cumulativa, comune per l'intero edificio. E anche di questo parleremo stamattina con la collaborazione del terzo ospite che non abbiamo ancora salutato, l'avvocato Eugenio Correale, capo ufficio studi della NACI. Avvocato, buongiorno. Buongiorno signora. E grazie di essere ritornato tra di noi. Molto grazie spesso lo disturbiamo proprio per le rogne, le beghe condominiali. Questa volta invece abbiamo il tema della certificazione energetica che riguarda anche i complessi condominiali. Prima di tutto però comincio la nostra chiacchierata con Saverio Fossati, collega del Sole 24 Ore, perché abbiamo proprio questa notizia che è arrivata nel fine settimana. Venerdì è arrivata finalmente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle cosiddette linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Cosa abbiamo in queste linee guida, Saverio? Beh, in sostanza erano particolarmente attese perché nella sospensione, diciamo, che la normativa regionale venisse poi approvata in tutte le regioni, non si sapeva bene come fare per poter avere una vera e propria certificazione energetica dell'edificio. Perciò si usavano i sistemi già dettati a suo tempo ai fini del risparmio energetico, della detrazione del 55%, una piccola serie di disposizioni molto sommarie che davano vita a un attestato di qualificazione energetica che era poi comunemente accettato. Tuttavia, quindi diciamo il decreto che è uscito venerdì, che poi è il decreto del 26 di giugno del Ministero dello Sviluppo, va a colmare questo vuoto normativo. Ricordiamo che avere una certificazione energetica è comunque indispensabile, necessario, obbligatorio per poter trasferire un immobile oppure per poterlo locare. È vero che il rogito è perfettamente valido anche in assenza di questo documento, è altrettanto vero però che la legge ne dispone appunto il possesso e il trasferimento, insomma, insieme con l'immobile all'acquirente. Voglio fare solo una brevissima premessa, cioè questa disposizione non è l'ennesimo obbligo vessatorio burocratico nei confronti dei cittadini, come molti ascoltatori ci hanno già contestandolo, così non dico segnalato, ma insomma c'è stata qualche presa di posizione proprio in questa direzione, Saverio, da parte di qualcuno che ci ha scritto. Ecco, però in realtà si tratta di una norma che deriva da una direttiva europea della 91-2002, la quale poi ha trovato la sua attuazione nel decreto legislativo il 192 del 2005. Quindi la direttiva europea ha lo scopo di far risparmiare energia, cioè la certificazione energetica serve a far capire a chi abita in quell'edificio che sta sprecando energia, non è quindi una sciocchezza, una carta d'identità inutile, cioè ha uno scopo preciso, quindi non tenderei a inserirla fra le norme inutili. No, hai fatto bene a precisare anche, come dire, l'origine della norma, perché magari in un frangente di difficoltà come questo può apparire anche un balzello il fatto di dover produrre questa certificazione, che ci costa anche un pochino. Di fatto però è qualcosa di fronte alla quale ci dovevamo trovare pronti già da un bel po' di tempo. Alessandro Tardio, direttore tecnico di Abaco Servizi, lo dicevamo prima, una società che si occupa anche di produrre queste certificazioni, ma ci spiega un po' tecnicamente in cosa si traduce l'efficienza energetica di un appartamento. Ho una definizione: la quantità di energia che serve per riscaldare un metro quadro per un anno, ma insomma mi sembra molto, molto vaga. Ci dà qualche spiegazione in più? Bisogna immaginare l'appartamento, l'unità immobiliare, l'immobile che si analizza come una scatola. Questa scatola è riscaldata da un impianto e quindi bisogna capire quanto di questo caldo questa scatola disperde verso l'esterno, verso ambienti che le sono confinanti non scaldati, e quindi in base a questo parametro si riesce a capire appunto quanta poi energia primaria serve per far sì che in questa abitazione vi sia un clima adeguato a viverla. Tecnicamente si guardano, si analizza l'involucro, quindi le murature che racchiudono questa scatola. Non è importante vedere come è divisa dentro questa unità immobiliare, quante camere, non ha molta importanza. È importante valutare il volume che poi viene riscaldato, è importante raccogliere dati relativi all'impianto, e quindi con gli appositi strumenti che le leggi regionali o queste linee guida nazionali mettono a disposizione del tecnico, si migrano i dati ed esce fuori questo valore che ci dice in che classe energetica si trova il nostro appartamento. Classificarlo. No, tra l'altro sono informazioni molto utili, perché da tutto questo abbiamo già capito anche qual è il tipo di controllo che il tecnico accreditato, che magari interpelliamo per farci fare questo lavoro in casa, anche se non dobbiamo necessariamente venderla, anche se non è nella nostra intenzione venderla nel breve periodo, però insomma abbiamo già capito mediamente di che tipo di consulenza ci dobbiamo aspettare. Poi magari ci entriamo ancora un po' più nel dettaglio su tutto questo. Avvocato Correale, allora, chi fosse sfuggita la novità e abita in condominio, mi risulta, lo scrivono anche i colleghi del Sole 24 Ore questa mattina sulla prima di Affari e Privati, che gli amministratori condominiali informeranno i proprietari degli stabili amministrati del nuovo obbligo? Sì, certamente. Io condivido quello che ha detto il dottor Fossati. La normativa è importante. Le novità che stanno mano a mano venendo fuori semplificano parecchio gli adempimenti. L'ultima comunicazione, quella delle linee guida, consentirà agevolmente di redigere l'attestato di certificazione energetica. E poi per il condominio in particolare c'è una novità ulteriore, perché è stato appena approvato, non è ancora pubblicato comunque, e già legge, seppure non operativa, lo sarà fra 15 giorni, una semplificazione notevole. Tutte le delibere che sono volte al contenimento dei consumi energetici e alla diagnosi energetica potranno essere adottate con la maggioranza delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea. Il che vuol dire che con una delibera che comunque può essere assunta, perché con qualunque quorum, purché sia la maggioranza degli intervenuti in assemblea, queste delibere possono essere assunte. È una novità davvero, davvero incisiva. Attendiamo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ma certamente nella disciplina condominiale avremo la possibilità di pervenire anche all'approvazione, quindi all'autorizzazione all'amministratore, di far redigere l'attestato di certificazione energetica, che, come ripeto, comunque risulta molto semplificato grazie alle ultime normative. Però l'amministratore di condominio immagino che lo faccia con una consulenza tecnica, avvocato Correale. Sì, certamente, ma infatti i passaggi opportuni sono comunicare ai condomini, avere una delibera, e ora sarà possibile con una maggioranza davvero risicata, e quindi rivolgersi a un tecnico. Si tratta di materia specialistica, anzi di materia da tecnici abilitati, soltanto alcune categorie professionali possono redigerle, perché occorre comunque guardare la centrale termica e poi le parti comuni. La centrale termica per vedere come il motore dell'edificio funziona, e le parti comuni per vedere quali sono le dispersioni, particolari che possono essere cagionate, ad esempio dalla mancanza di opivetri o altri particolari di questo genere. Ecco, nell'ottica della semplificazione di cui ci stava spiegando i termini, avvocato Correale, si inserisce anche la possibilità che un condominio si possa dotare di una certificazione unica che attesti appunto la classe energetica dello stabile nel quale si abita. È possibile allora adesso farla o meno, e quali condizioni devono essere soddisfatte? È certamente possibile. Alcune regioni hanno condizionato questa possibilità alla presenza di un impianto termico centralizzato. Qui in Lombardia, ad esempio, se manca l'impianto termico centralizzato, purtroppo si dovrà fare soltanto quella individuale. Comunque il condominio può provvedere, e direi che è assolutamente positivo che vi provveda, chiaramente purché vi sia la delibera e chiaramente entro termini di spesa che siano anche compatibili per i nostri condomini. La certificazione, o meglio l'attestato per una sola unità immobiliare, costerà cifre che sono nell'ordine delle centinaia di euro, quindi 6, 700, 800, 1000, non faccio come mestiere certificatore, do delle indicazioni così molto grossolane. Poi sentiremo se il certificatore è d'accordo preventivi. Ma non è una mia opinione, era solo per dare un'indicazione di massima, così molto di massima. Chiaramente quella per l'intero edificio è un attestato più complesso che richiederà maggior rettività, quindi di maggior costo, soprattutto quando gli edifici sono complessi si può arrivare anche a cifre di un minimo di importanza. Comunque sicuramente vale la pena farle, e sicuramente se oltre ad averle fatte le si legge e quindi poi si attuano le prescrizioni, i suggerimenti dell'esperto, si avrà un beneficio. Io continuo a ricordare il numero verde, arrivano tra l'altro molti messaggi, adesso ce n'è qualcuno anche interessante che leggerò ai nostri ospiti, al 349-238-6666, mentre per prenotare i vostri interventi e per intervenire poi in diretta potete chiamare l'800-24-0024. Saverio, vorrei fare anche una precisazione molto chiara. Tutto quello di cui stiamo parlando questa mattina riguarda fondamentalmente il patrimonio immobiliare esistente. Per il nuovo, diciamo che il costruttore al quale ci rivolgiamo teoricamente dovrebbe in automatico a rogito darci questa documentazione dalla quale deve dotarsi. Sì, naturalmente. Ecco. Quindi non c'è problema, insomma, si parla solo di immobili non ultimati al 2005, ecco, quindi in realtà un patrimonio che si può calcolare in... mediamente vengono costruite circa 700.000 unità immobiliari l'anno, quindi tutte le altre, cioè almeno una cinquantina, sessantina di milioni di unità immobiliari dovrebbero avere in questo momento questa certificazione. Il tema sanzionatorio è interessante, perché c'è un'ascoltatrice che ci scrive, Anna da Torino: ma se anche sapessi che il mio appartamento non rientra nei valori energetici previsti dalla normativa, ma non avessi adesso i soldi per rimediare, che faccio? Pago delle multe? Io non credo che nessuno le possa andare a contestare se è l'abitazione dove vive tardio. Mi aiuta lei, insomma? No. Ecco, esatto, infatti. Diciamo che lei si dovrebbe porre il problema nel caso in cui volesse vendere l'appartamento, allora in quel caso deve dotarsi di tutta la documentazione energetica. Infatti l'obbligo è per le unità immobiliari oggetto di trasferimento oneroso. Il resto del patrimonio esistente non è soggetto a obbligo di produzione di certificazione energetica. E almeno per adesso, diciamo che il legislatore, immagino, abbia pensato che già una gran fetta di patrimonio che viene trasferito può essere monitorato e certificato, perché la certificazione energetica oggi serve fondamentalmente per capire a che punto sta il nostro patrimonio. Poi, partendo da quel presupposto, si possono mettere in campo gli adeguamenti per far sì che nei decenni successivi ci sia appunto un miglioramento dei consumi, ma anche delle emissioni, perché si parla di consumi, di energia, ma tutto questo ci fa anche ricordare Kyoto, e quindi il fatto che se un immobile consuma poco, emette anche poche sostanze inquinanti in atmosfera. Comunque solo le unità oggetto di trasferimento per ora, e quelle di nuova costruzione, chiaramente. Ecco, c'è Filippo da Frosinone, il primo intervento di oggi al telefono all'800240024, che naturalmente si fa tentare, come dire, da una pratica a cui secondo me hanno pensato un po' in parecchi di recente. Filippo, benvenuto. Buongiorno, grazie. Buongiorno a lei. Allora, volevo porre questo quesito, cioè se io fossi interessato ad acquistare un'abitazione di vecchia costruzione, la quale naturalmente non è dotata di questi accorgimenti preventivi, E a questo punto i costi dell'adeguamento, nonché della certificazione, delle perizie e quant'altro, me ne dovrei far carico io per adeguarlo. Uh-huh. E nel momento in cui del passaggio di proprietà, potrei scomputarlo dal prezzo del costo, visto e considerato che la normativa oramai è diventata operante? Filippo, beh, allora lì intanto, certo, c'è tutta la situazione magari dei compromessi già firmati e delle persone che erano totalmente, Saverio, all'oscuro di questa novità che magari sarebbe appunto entrata in vigore a partire dal 1 luglio, perché avesse già pattuito un prezzo, secondo te adesso potrebbe rimetterlo in discussione in virtù del fatto che si è reso cosciente della necessità di certificare dal punto di vista energetico le abitazioni appunto oggetto di compravendita? Beh, direi proprio di no. La trattativa è sempre aperta perché l'atto di compravendita è rappresentato da quello che noi chiamiamo il rogito. Il compromesso è una promessa di vendita, quindi un contratto fra le parti, si può sempre modificare. Però il fatto che il 1 luglio scattasse questo obbligo è qualcosa che si sa già da anni, e quindi, dato che il compromesso non è il rogito, beh, insomma, comunque sia, è un impegno che il venditore ha pattuito con il compratore. Il compratore non ha degli obblighi, il compratore deve semplicemente trovarsi la casa il giorno X con questa certificazione energetica. Se non c'è la certificazione energetica, il compratore stesso ha il diritto di chiedere al venditore o una riduzione del prezzo, oppure successivamente, una volta che avrà fatto a sua cura eventualmente questa certificazione, avrà diritto di chiedergli un risarcimento per la mancata allegazione. Su questo mi pare che più o meno siamo tutti d'accordo. Sì, sì, il venditore ha solo numerosi conflitti in arrivo per chi non si è messo d'accordo in questo senso prima. Tuttavia, tuttavia, siccome non costa una cifra spaventosa, cioè come una casa mediamente viene venduta dagli 80.000 euro in su, 300 sì. euro per una certificazione energetica, mi pare che possano essere oggetto anche di una trattativa con una molto semplice fra le persone che gli dicono: va bene, tieni 3 bancarotte da 50 euro e smettiamola di romperci le scatole su questo dettaglio, considerando bene, poi l'importanza insomma della cosa. Torniamo su questi aspetti nella seconda parte di Salvadanaio. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. Un altro ascoltatore invece ci dice che ha speso per questo certificato 1000 euro per qualcosa comprato 10 anni fa e la definisce questa spesa che ha dovuto sostenere una nuova tassa nascosta. E come era naturale prevedere, esattamente come è successo anche la settimana scorsa e per la verità come accade ogni volta che parliamo di questo argomento, stanno arrivando moltissime telefonate da parte dei nostri amici che ci seguono da casa. 800 24 00 24 per parlare della certificazione energetica, di questo nuovo bollino che va applicato intanto agli atti di compravendita degli immobili, quindi quando c'è un trasferimento oneroso dell'immobile, in genere è un obbligo quello di dotare la casa di questa certificazione che è in carico al venditore, e poi c'è tutta la questione che riguarda appunto i condomini, insomma una questione piuttosto complessa che le regioni stanno gestendo al momento in ordine sparso, ma per tentare di uniformare la situazione sono state pubblicate proprio venerdì scorso in Gazzetta Ufficiale le cosiddette linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. In ogni caso, per tentare di darvi quantomeno i termini generali della questione, questa mattina abbiamo chiamato da noi Saverio Fossati, collega del Sole 24 Ore, Eugenio Correale, capo ufficio studi della NACI, Alessandro Tardio, direttore tecnico di Abaco Servizi. Allora, la questione condominiale che affrontiamo con l'avvocato Correale, un'altra questione condominiale ce la pone Giacomo da Napoli, che saluto. Giacomo, buongiorno a lei. Ci dica tutto. Io più che la questione condominiale mi ponevo questa domanda: se volendo certificare l'appartamento di mia proprietà, che è porzione dell'involucro più grande che quello condominiale, è propedeutica la certificazione del condominio rispetto alla mia? Perché ovviamente il mio appartamento si innesta su qualche cosa che è già condominiale. Certo. Grazie molte, Giacomo. Avvocato Correale, allora è chiaro che il proprietario del singolo appartamento, a prescindere da quello che poi decide di fare il condominio, fa quello che vuole. Se vuole fare una seconda certificazione rafforzativa della prima, la può fare. Adesso non so se le ho posto nei termini corretti la questione, Quello che ha detto l'ascoltatore può essere utilizzato con una piccola correzione. L'ascoltatore ha detto è propedeutica. In realtà va corretto solo questa parola: non è propedeutica. Nella certificazione della singola unità immobiliare debbono essere considerate anche le parti comuni. Quindi non è che si tratti di due documenti, si tratta di un unico documento che può essere o cumulativo, tutte le unità immobiliari vengono considerate contestualmente, l'intero edificio viene considerato contestualmente, oppure si considererà la sola unità immobiliare più le parti comuni. Il procedimento non è per nulla complesso, il nostro ordinamento si è preoccupato con le linee guida a semplificare moltissimo le attività dei tecnici. Noi eravamo partiti nel 2005 dalla previsione di dover smontare l'edificio per analizzarlo. Ora abbiamo fatto tesoro soprattutto delle normative UNI, quindi di tutte le normative che riguardano comunque il monitoraggio degli edifici, e l'attestato che viene richiesto oggi è un attestato certamente molto semplificato rispetto a prima. Mi si consente di fare una piccola aggiunta, perché è vero che siamo uno Stato di tante regioni e quindi in tutta Italia normalmente la questione che la controversia tra acquirente e venditore riguarderà le poche centinaia di euro che servono per la certificazione. Il nostro ordinamento in maniera molto saggia ha detto non è condizione di validità del contratto, per cui il contratto vale comunque, al limite parleremo del costo della certificazione. In Lombardia, la Lombardia è un po' più brillante delle altre regioni, soprattutto in materia, è stata istituita una sanzione apposta, per cui la mancata allegazione del rogito comporterà della certificazione rogito, non invalida l'atto, però comporta una sanzione e non è esigua, da 1.000 a 10.000 euro. E ma quindi dobbiamo pensare che saranno i notai ad evitare di stipulare rogiti senza aver avvertito le parti di quello del rischio che corre. Una raccomandazione che non finiremo mai di dare a sufficienza ai nostri ascoltatori. Io capisco che quando scegliamo la casa dei nostri sogni la prima cosa che guardiamo è il prezzo, poi andiamo in banca per capire se ci eroga il mutuo prima di tutto, però io farei anche, una volta che abbiamo individuato le caratteristiche estetiche e tecniche dell'abitazione dei nostri sogni, andiamo anche a fare una chiacchierata con il notaio che ci dice prima tutto quello che sarà necessario fare appunto in termini proprio legali per sistemare l'atto di compravendita, per definire, per portare a termine l'atto di compravendita. E adesso i notai saranno perfettamente informati anche di questa novità e ci daranno tutti i suggerimenti giusti per poterci muovere bene in questo campo. Allora, architetto Tardio, torniamo a lei, anzi c'è una domanda per lei da parte di Doriano da Milano che saluto. Doriano, benvenuto. Buongiorno a tutti quanti e grazie per l'interessamento, siete sempre molto attivi in questo. No, la mia domanda si riferiva, e io purtroppo non sono tecnico né nella parte fisica né quella burocratica, mi identifico semplicemente come, tra virgolette, molto scherzosamente vittima della situazione. Ok, vabbè, c'è questa qua, la paghiamo, ok. E insomma, adesso sta vendendo casa in soldoni Doriano, mi pare di capire, e adesso ha preso coscienza del fatto che deve dotarsi di questo documento. Cioè, dobbiamo farlo. La domanda è per noi ignoranti, chi dobbiamo chiamare? Ad esempio l'idraulico piuttosto che, ne so, l'elettricista o il termotecnico o chi per esso, o che, cioè, noi prendiamo le pagine gialle e cerchiamo sotto la voce di... Bravissimo Doriano, domanda che mi piace molto ed era quella proprio che ero in procinto di fare all'architetto Tardio, perché qua parliamo di professionalità accreditate. Tra l'altro nella trasmissione scorsa gli altri tecnici che avevo avuto mi avevano detto, per esempio per la Lombardia c'è l'elenco di questi tecnici abilitati ad eseguire questa certificazione. Mi sono fatta un viaggio nel sito della regione Lombardia e prima di trovare questo elenco di certificatori accreditati ho dovuto lottare non poco con i miei collaboratori in redazione. Allora, chi è il tecnico abilitato a compilare questa certificazione, architetto Tardio? Lei per esempio è un tecnico abilitato? In Lombardia no. Ah. Ho però uno staff di tecnici abilitati. Personalmente no. Non mi sono abilitato. Beh. Allora, il tecnico abilitato a redigere il certificato energetico, se vogliamo parlare delle linee guida nazionali, sono tutti i tecnici iscritti regolarmente a un albo professionale, quindi geometri, periti industriali, ingegneri e architetti. Laddove la regione ha legiferato, e quindi nel caso del signor Doriano a Milano, siamo in Lombardia, sono stati istituiti dei corsi appositi da seguire e ci sono delle liste di tecnici abilitati che sono difficilmente reperibili. Infatti, in regione, però ci si può riuscire. Ancora di più sulle pagine gialle, perché penso che ancora è prematuro trovare un tecnico. Sicuramente non è l'idraulico in questione, ha detto l'ascoltatore, è comunque mediamente un architetto, un geometra. Geometri, architetti, ingegneri, periti, però devono avere seguito il corso superato l'esame e sono iscritti all'apposito albo di certificatori della Regione Lombardia. Quindi questo è quanto dovremmo sapere. Per l'ascoltatore lo invitiamo appunto a provare a fare la ricerca sul sito della Regione. Quanto ci costa questa perizia, chiamiamola così, questa certificazione, architetto Tardio? Perché qua mi pare di capire che ci sono delle cifre un po' sparate anche a caso, si va dalle 300 euro che abbiamo detto, 1000 euro, io intanto credo che dipenda dalle caratteristiche delle abitazioni che si va a controllare. Esatto, dipende dalla dimensione. Parliamo delle singole unità. La singola unità deve essere un'unità immobiliare normale, e quindi non di 600-700 metri quadri, quindi se parliamo di normalità, i prezzi variano dalle 300 alle 500 euro per unità immobiliare. Poi è chiaro che è un mercato nuovo, noi come azienda operiamo già in questo settore dal luglio 2007, che è ormai un'eternità rispetto a questa normativa, perché c'erano già obblighi relativamente ai grandi proprietari immobiliari, e quindi per i palazzi, per i cieloterra che andavano a vendersi, c'è la necessità di produrre l'attestato di qualificazione o di certificazione energetica. Quindi il prezzo era tarato sul metro quadro per i grandi immobili. L'unità, che io sappia, perché poi voglio dire, dipende anche dalle varie città, Bologna ho raccolto qualche informazione dai professionisti locali, si parla appunto di 300-500 euro. In Liguria, ahimè, c'è un software che va utilizzato per migrare i dati tecnici, che è molto difficile, bisogna quasi essere fisici. E quindi oneroso. Quindi per esempio in Liguria i tecnici stessi abilitati, perché anche in Liguria bisogna fare il corso apposito, sono spaventati dal tempo che serve per tirare fuori questo certificato, e quindi il prezzo è ancora da calmierare. Ecco, da calmierare. C'è un ascoltatore che ci fa una domanda che ritengo anche intelligente. Ci sono dei casi in cui il responso del tecnico abilitato può essere, come dire, negativo, una certificazione negativa? In questo caso credo una certificazione che non viene rilasciata. No. Non esiste. No, piuttosto in... A meno che non si abiti in condizioni totalmente fatiscenti. No, perché la classificazione va dalla lettera A alla lettera G, come per i frigoriferi. Tutt'al più questa unità immobiliare sarà in classe nella G, nella minima ma molto in basso. Benissimo. Allora, ancora niente, mi state dicendo, non capisco le indicazioni. Il 3, quindi è Carlo da Roma che facciamo intervenire adesso. Carlo. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Io sono un tecnico e sono già nel fare queste certificazioni dal 1 luglio con alcuni notai. Comunque lo specialista deve essere o un ingegnere o comunque un geometra o architetto accreditato con dimostrazione di aver fatto dei corsi o quantomeno una conoscenza specifica dell'argomento. Anche perché parliamo di Roma, il mercato di Roma vede moltissime abitazioni con impianti termoautonomi vecchi, vetusti appunto, con impianti con caldaie ancora di vecchio stampo, le cosiddette atmosferiche, no? E quelle non rientrano già per legge per i rendimenti energetici. Ne consegue che comunque le prescrizioni dovranno essere eseguite. Al notaio serve semplicemente l'attestato per fare in modo che le parti siano d'accordo. Infatti mi è capitato più volte di trovare le parti d'accordo sotto il profilo economico e poi successivamente fare il compenso economico del costo, che poi si traduce sempre, io dico di un paio di centinaia di migliaia di euro, non i 1000 euro, che purtroppo è un mercato quello che si apre, è un mercato, non è una tassa secondo me, è un mercato che serve per poter gestire meglio le nostre risorse energetiche. E questo quanto abbiamo detto anche all'inizio della nostra trasmissione. Carlo, la ringrazio per aver supportato ulteriormente le nostre spiegazioni. E quindi insomma l'importante è far capire ai nostri ascoltatori come poter individuare le professionalità adatte a fare un lavoro di questo tipo e anche quanto ragionevolmente si deve spendere. Quindi non facciamo in modo che non ci sentiamo sparare insomma delle cifre assurde, ma neanche, come ci scrive un ascoltatore, conosco dei colleghi che so che per 50 euro rilasciano questa certificazione. Beh, io non lo so, poi magari commentiamo anche questa. Eccoci ritrovati in diretta, ancora buona giornata da Deborah Rosciani, l'ultima parte della nostra trasmissione dedicata alla certificazione energetica della nostra casa, qualora fossimo intenzionati in particolar modo a venderla, altrimenti insomma magari non adesso fasciamoci la testa prima del previsto, qualora volessimo ancora abitare a lungo nella nostra casa ma la certificazione non ce l'abbiamo. Saverio Fossati, non è che dobbiamo farla domani mattina. No, ricordiamo che la certificazione va fatta solo al momento della consegna dell'immobile a titolo oneroso, quindi per citare i casi più normali, in caso di vendita o in caso di locazione, mentre invece in caso di comodato o in caso di donazione non è obbligatoria. No, tra l'altro anche sul caso della locazione ci sono ancora un po' di cose da chiarire, perché l'obbligo non è vigente da subito, mi sembra. Sì, in certe regioni, ecco, è spostato, per esempio Lombardia e Emilia, partirà anno, dal 1 luglio 2010, è da dire appunto che alcune regioni che hanno già legiferato prevedono una sanzione specifica amministrativa per chi non consegna questa certificazione. Questo complica un po' le cose, perché se è vero che l'obbligo di allegazione al rogito non c'è, è vero che i notai di questa regione, in particolare quelli della Lombardia, sono molto fermi nel chiedere la certificazione proprio per evitare al venditore l'irrogazione di una sanzione amministrativa che, come ricordava prima l'avvocato Correale, varia fra i 1.000 e i 10.000 euro. Allora, visto che l'abbiamo evocato, lo coinvolgiamo di nuovo, l'avvocato Correale, con alcune domande di alcuni ascoltatori. È pronto da un bel po' Costanzo da Milano questa mattina sul milanese, che l'avvocato Correale conosce molto bene, insomma stiamo puntando molto. Costanzo, benvenuto. Sì, buongiorno a lei e buongiorno a tutti i suoi ospiti. Eccoci qua. Io abito in un condominio con riscaldamento autonomo. Sì. Questa certificazione energetica si basa su scambi termici fra le varie murature. Normalmente in fase di progettazione, al di sopra e al di sotto del mio appartamento, si dovrebbe prevedere una certa temperatura mantenuta da impianti di riscaldamento autonomi di altri inquilini. Non ci sono legislazioni che prevedono che se un appartamento sopra o sotto è sfitto e quindi il riscaldamento è chiuso. Certo, lo scambio termico, dice lei, insomma. Lo scambio termico quindi c'è qualcosa che prevede un obbligo di mantenimento di un minimo di temperatura al di sopra o di sotto? Costanza. O questa certificazione prenderà dei valori così un po'. A casaccio, per non dire un'altra parola. Costanzo, allora guardi, la giro all'architetto questa domanda, architetto Tardio. No, non è che viene fatta a casaccio, perché si presume che le unità immobiliari che stanno, insomma, che in adiacenza con quella in esame siano mediamente riscaldate. Quindi si assumono come validi dei valori standard. Quindi insomma il fatto che sia vuoto l'appartamento di sopra e anche quello di sotto non ha nulla a che vedere con la certificazione della propria abitazione. No, non può inficiare sui risultati della certificazione. Neanche una classificazione di un certo tipo piuttosto che un'altra. No, anche perché poi ognuno ha diritto di tenere la temperatura che desidera in casa, quindi non è che si va a analizzare. Io non mi sarei mai posta questa domanda. I nostri ascoltatori sono incredibili, anche molto molto intelligenti, per cui vivacizzano sempre la nostra trasmissione. Saverio, volevo fare un'altra domanda a te, perché c'è qualche ascoltatore che si chiede anche questo. Se in sostanza tutto questo movimento messo in moto dalla questione delle certificazioni energetiche in qualche maniera potrà influire sulle quotazioni dei prezzi degli immobili prossimamente nel nostro paese, insomma, come vedi anche questo aggancio? Dovrebbe influire, perché siccome con la certificazione energetica viene attribuito una classe energetica, alla classe energetica corrisponde un diverso consumo, per cui si può dire che fra la classe A e la classe, diciamo, D, che insieme con la classe C è quella purtroppo fra le più diffuse attualmente nel nostro paese, c'è una differenza di consumo che si può quantificare intorno almeno ai 1.000-1.200 euro all'anno, quindi non è poco, perché se uno compra una casa e ipotizza appunto di tenersela per 10 anni, beh, in quei 10 anni risparmierà almeno 12-15 mila euro attualizzati, quindi è una cosa di cui si deve tenere conto. Ma sto parlando, diciamo, facciamo la tara per eccesso, diciamo, a queste cifre, quindi sono cifre che comunque sono sicuramente più basse di quello che sarà poi il risparmio reale confrontato, ripeto, fra una classe A e una classe C/D. Quindi se una casa della classe A dovrebbe costare sensibilmente di meno di una casa analoga, stessa metratura, di classe C. Consumi, e presto accadrà, come deve accadere, sarà il mercato a stabilirlo, ma presto aspettiamoci anche, sensibilità, come dire, certo, la ripercussione di questa tendenza. Peraltro, mentre mi stavi facendo questa risposta, hai detto una cosa che mi ha fatto venire in mente un'altra domanda da farti. 10 anni, allora, qualora io producessi per la mia abitazione la certificazione energetica, perché devo metterla sul mercato fra qualche tempo, la consegno all'acquirente nel momento in cui faccio il rogo, oggi, da questa certificazione quanto vale? Dura appunto 10 anni, dopo 10 anni va rifatta, e questo è forse anche una delle cose che spingono i condomini a essere un po' restii, no, a fare la certificazione condominiale, che pure sarebbe molto più conveniente dal punto di vista economico, no, anziché farla per singolo appartamento, perché chi non ha intenzione di venderla l'unità immobiliare per i prossimi 10 anni dice: ma che mi importa, tanto questa fra 10 anni andrebbe comunque rifatta. Allora invece io esorto tutti a ragionare su questa possibilità della certificazione energetica condominiale, che è sicuramente assai più economica di quella individuale. Avvocato Correale vuole intervenire di nuovo anche su questo punto. Prima però magari le faccio sentire anche un'altra domanda, che è quella di Davide da Bergamo. Davide, sì, pronto. Buongiorno. Mi ricollego all'ultima affermazione che ha fatto i nostri ospiti, sì. Ecco, la mia domanda è questa: io, abitando a Bergamo in un appartamento, in un condominio molto vecchio, ho fatto dei lavori di riqualificazione energetica. La mia domanda è: ha ottenuto se... l'incentivo del 55%, Davide? In parte sì, in altre attività le ho svolte io, ecco, così sì. Le do un quadro globale. Sì. Ecco, la mia domanda è se per caso io posso puntare ad avere una classificazione energetica più alta in confronto a quella del condominio. Beh, lì, allora sentiamo l'avvocato Correale, poi anche l'architetto Tardio, naturalmente lì lo deve stabilire un tecnico, immagino. Avvocato Correale. In effetti è possibilissimo, perché se il mio appartamento è dotato di infissi pregiati e doppi vetri, mentre gli altri non lo sono, chiaramente il mio appartamento è più efficiente. Io vorrei ribadire quello che ha detto il dottor Fossati: la certificazione energetica condominiale è opportuna, ed è opportuna perché l'obbligo di certificazione certamente scatta con la compravendita, ma in linea normale noi dobbiamo comunque accompagnare con la certificazione energetica tutti i lavori di manutenzione, tutte le grandi ristrutturazioni. Quindi in un condominio, in un edificio che ha una qualche complessità, avere l'attestato di certificazione energetica è comunque opportuno. I condomini non potrebbero fruire delle detrazioni d'imposta senza la detrazione, quindi il condominio fa bene a prepararsi. Tra l'altro, avvocato Correale, un'altra domanda di un ascoltatore che vorrebbe chiamarci, ma mi ha incuriosito questa, non riusciamo a farlo intervenire in diretta. Per la certificazione condominiale la spesa viene, immagino, ripartita per millesimi di proprietà. Esatto, sicuramente per millesimi di proprietà. Mi sembra, insomma, la regola di base della vita di condominio, almeno questa. Certamente. Architetto Tardio, sulla questione che poneva prima l'ascoltatore, insomma, se può ambire ad avere una classe energetica della propria abitazione migliore addirittura di quella dell'intero condominio, possiamo, io direi che deve ambire al meglio della propria casa. Direi di sì, perché insomma è un discorso che noi stiamo facendo, un discorso legato sul dovere e sull'onere economico che questo dovere comporta. Se vogliamo essere più visionari, insomma, possiamo anche dire che ognuno di noi, se mira alla classe A della propria abitazione, sicuramente aiutiamo un po' tutti, no? Infatti, un po' come il frigorifero. Esatto, allora noi dobbiamo chiudere la nostra trasmissione, 10 secondi di tempo. Saverio Fossati, abbiamo un'ultima raccomandazione da fare ai nostri ascoltatori, se non quella di leggere Il Sole spesso e volentieri, perché su questi temi ci tornate praticamente quasi tutti i giorni. E poi? Solo che sulla certificazione condominiale, comunque in attesa di quella norma che diceva l'avvocato Correale, è sufficiente convocare un'assemblea e approvare una delibera che registri almeno, nell'ambito della maggioranza dei presenti, almeno un terzo dei millesimi e dei condomini. Quindi non è comunque difficile da approvare anche a normativa vigente. Benissimo, grazie a Saverio Fossati, ad Eugenio Correale, all'architetto Alessandro Tardio per essere stati con noi. Ma su questi temi, lo sapete, piacciono tantissimo a Salva Danaio, quindi continueremo a seguire i vostri dilemmi, le vostre preoccupazioni, a darvi tutte le indicazioni necessarie per muovervi appunto correttamente in questi campi. Noi torniamo domani, buona giornata.